A bordo campo di Dario Ricci. Speciale Vancouver 2010. Era un tempo che ce l'ha fatta. 48 e dietro! Sintetica ha vinto ancora Alberto! Ha vinto ancora e lo vedete esultare! Due medaglie d'oro, entra nella leggenda! Alberto Tomba entra nella leggenda dello sci di tutti i tempi! Signori, soltanto! Complimenti a Tomba, è un tripudio generale, ha fatto una incredibile rimonta! Adesso stiamo vedendo che cos'è il teatro in questo momento! Il teatro è impazzito! Grazie! È stato l'unico a riuscire a fermare per qualche istante il Festival di Sanremo. Era il 1988, Olimpiadi di Calgary. Alberto Tomba trionfa in slalom speciale e in gigante. Doppio oro olimpico che dà il via a una carriera da leggenda. E Tomba la bomba è il punto di contatto per il nostro sci tra Calgary 88 e Vancouver 2010. Nelle nuove Olimpiadi canadesi Alberto sarà infatti l'ambasciatore dell'intera squadra azzurra, con un occhio di riguardo, ovvio, per i suoi colleghi sciatori. Quello che ho fatto in Canada 22 anni fa, spero di portare la fortuna, che ne so qualcosa del Canada. Penso che oggi, come la ciliegina che ho messo su Torino, posso farlo oggi con voi, con Vancouver. Io spero di darmi un bocca al lupo a tutti voi e dello sci alpino, che sono mancate le medaglie a Torino, che ci sia qualcosa e sarò presente con voi, non più da atleta, ma dietro le quinte. Speriamo di festeggiare insieme con voi, ragazzi, poi vi sono vicino. Come ricordava Tomba, a Vancouver 2010, dal 12 al 28 febbraio, c'è da riscattare lo zero nella casella medaglie di Torino 2006. Quattro anni fa la grande speranza era Giorgio Rocca. Il campione azzurro arrivò al cancelletto di partenza al Sestrier dopo 5 vittorie consecutive in Coppa, ma la sua gara durò appena una trentina di secondi. Ma sono partito molto bene, avevo un buon ritmo. Poi, poco prima di uscire, la neve era un po' più sconnessa, lì mi sono un po'... ho perso un po' l'assetto, però poi volevo proprio riprendere, cioè imprimere io il ritmo. La neve era un po' più morbida, ho dato troppa pressione e poi mi ha sbalzato via, non ho avuto neanche il tempo di reagire, che avevo già la faccia nella neve. Un brutto infortunio poche settimane fa ha messo Rocca fuori dai giochi di Vancouver. In slalom punteremo allora su Giuliano Razzoli, 25 anni, emiliano come Tomba. La bomba stravede per lui, che però allontana l'impegnativo paragone. No, beh, non mi pesa niente perché il paragone non c'è, quindi io sono ben tranquillo. Come paragonare non saprei dirti l'esempio, ma è troppo differente, è troppo grande il paragone, quindi non ha senso. Sicuramente c'è un bel rapporto d'amicizia, lui è sempre stato il mio idolo da piccolino, è bello dal punto di vista tecnico. Lui da sempre ci tiene, sai, a darti qualche consiglio sulle piste, che lui, dove lui ha vinto, tutto, quando lo sento ogni tanto, ma prova sempre a trasmetterti qualcosa. Non è mai facile perché lui era un campione che ha vinto 50 gare e adesso non ce n'è più di campione che vinca 50 gare, io non sono uno che ha vinto 50 gare, quindi cerco comunque di prendere i consigli che mi dà. Altro jolly tra slalom e gigante è Manfred Mölg, argento mondiale nel 2007 e vincitore della Coppa di specialità in slalom nel 2008. Sicuramente non vorrei fare l'errore che ho fatto a Torino, o meglio adesso a Torino sono arrivato che ero abbastanza giovane ancora, primi anni di esperienza, e senza pensare troppo alle medaglie, senza pensare che sia veramente solo quello che conta. È molto importante trovare una forma molto buona, arrivare lì preparati e che si sia sciato bene le ultime gare, per quello poi dopo si può raccogliere qualcosa di bello. Lo vedo come ha fatto ora, che lì sono arrivato senza sperare in niente, poi sono andato via con una medaglia, e per quello la prendo un po' così, arrivare lì in una buona forma e poi tutto può succedere. Sempre in gigante, Blardone e Simoncelli potrebbero coronare a Vancouver un'annata ad alto livello, e a farci sognare il podio anche gli uomini jet di Super G e discesa. Werner Hell è stato tra i migliori discesisti in stagione e Peter Phil, argento mondiale in Super G nel 2009, ha preso al volo l'aereo per i giochi dopo il grave infortunio di inizio stagione. Dolori non c'erano tanti, c'era un po' di fastidio e poi soprattutto timore, perché sentivo un po', diciamo, un po' di paura anche di aver male, sono stato sempre molto attento, diciamo, quando sono sceso, e per quello anche molto teso. Speriamo che comunque riesco a togliere questo pensiero qua quando uscirò le prossime volte. Anche la Valanga Rosa è un affare di famiglia. In gigante slalom cerca l'acuto Manuela Mölg, sorella di Manfred. E Vancouver sarà forse l'ultima occasione olimpica per Denise Carbon, cugina di Peter Phil, che a 29 anni spera in una rivincita dopo una carriera condizionata dai guai fisici. Beh, la mia squadra sicuramente c'è Manuela Mölg e la Nicole Just, che sono molto forti. Io punto molto su di loro, poi le avversarie straniere sono sempre le solite, americane, tedesche, austriache, finlandesi, non c'è da dimenticare neanche una, perché soprattutto quest'anno mi sembra che siano tutte forti. Nel gigante canadese la sorpresa potrebbe essere Federica Brignone, 19 anni, figlia di Ninna Aquario, campionessa della Valanga Rosa degli anni 80. Federica, grazie per essere ospite qui a Bordo Campo, speciale Vancouver 2010. Allora, emozionata all'idea della tua prima Olimpiade, vero? Sì, è fantastico andare là, cioè è sempre stato un mio desiderio e il fatto di andare là è veramente una bella cosa. Quindi niente, io sono veramente contenta. Senti, quante ore di sonno hai perso finora a sognarti sulla pista olimpica di Whistler Mountain? Nessuna, non sto pensando ancora là. Io sto pensando alle gare che devo ancora fare adesso, per cui ci penserò quando sarò là. Da tempo su di te c'è l'attenzione degli esperti dello sci, del nostro sport invernale, anche perché tu sei figlia di Ninna Aquario e quindi insomma erede di una grande campionessa italiana. Da questo punto di vista, consigli da parte di mamma? Ma ti dirò, per ora ancora nessuno, vedrò se ne avrò bisogno, vedrò di quello di cui ho bisogno. Ecco, dal punto di vista tecnico invece in cosa ti rivedi simile alla grande Ninna? O in cosa invece siete diverse? Ma siamo molto simili, credo, di testa. E tecnicamente non lo so, non è una crescita completamente diversa. Adesso i materiali sono nuovi, i tracciati sono nuovi. Io lei in gigante sinceramente non l'ho mai vista sciare, per cui non saprei dirti. Ti aspettavi di essere così subito protagonista quest'anno? No, ci speravo, ma non pensavo di essere subito così ad alti livelli. Raccontaci un po' qualcosa di te fuori dalle piste di sci, quali sono i tuoi hobby, le tue passioni? Niente, lo sport in generale, adesso mi sono iscritta all'università, andrò a Scienze Motorie a Torino finita la stagione, mi trasferirò là con dei miei amici per studiare e poi vedrò, cercherò di dare più esami possibile verso giugno, settembre. E senti, a casa sono più contenti di un podio in Coppa del Mondo o magari di un bel voto a scuola o magari all'università? Di un podio in Coppa del Mondo, direi. Cioè, di quello di cui ho voglia di fare, non per forza, cioè, se a me la cosa piace, quello che piace di più a me piace di più anche ai miei genitori. Fra poco, ve lo preannuncio, ci raggiungerà un grande mito del nostro sci. Prima però un profilo dedicato a due dei campioni più attesi sul pendio di Whistler Mountain. Tutti e due sono americani e tutte e due hanno un sogno in comune. Sentiamo. Lui, a 32 anni, è nel ristrettissimo club dei campioni che hanno vinto almeno una gara in ognuna delle 5 specialità dello sci alpino, ha 2 coppe del mondo già in bacheca e 4 ori mondiali. Lei, 25 anni, è la regina della velocità, con 2 ori e 2 argenti mondiali al collo e, come il collega, ha conquistato 2 trofei iridati. Ma unire Bodie Miller e Lindsay Kildow in Bonn è la caccia a quell'oro olimpico, che ancora manca al loro fantastico palmarès. Miller è considerato il figlio prodigo dello sci, ritornato alle gare quest'anno dopo aver più volte annunciato l'idea di ritirarsi e aver riconosciuto la paternità di una bimba nata da una relazione segreta. Dopo aver vissuto per anni in un motorhome al seguito del Circo Bianco, Miller ha ora deciso di condividere spazi e allenamenti col resto della squadra statunitense. A Vancouver cerca la rivincita dopo la delusione di Torino 2006, tante serate passate in discoteca prima e dopo le gare, ma nessuna medaglia conquistata. First place from the USA, Lindsay Vonn. Decisamente più tranquillo il menage familiare di Lindsay Kildow, che dal settembre 2007 è sposata, contro il volere di papà, con Thomas Vonn, che ne è l'allenatore, il manager e il motivatore. Le rivali austriache l'accusano di vincere perché è un po' sovrappeso. Lei risponde con tecnica fenomenale e coraggio da vendere e l'immancabile sorriso da sfoggiare sul podio, spesso sul gradino più alto. Gran finale con l'ospite che vi avevo promesso. Ci ha raggiunto in collegamento Gustavo Töni, un oro e due argenti olimpici, 5 coppe del mondo. Allora Gustavo, che Olimpiadi dobbiamo aspettarci per il nostro sci? Mi aspetto sicuramente delle belle Olimpiadi, quasi un po' in tutte le discipline abbiamo dei ragazzi che possono fare bene. C'è grande attesa soprattutto nel settore velocità, con Werner Hell che ha dimostrato in stagione di poter essere con i migliori, se non in molti casi addirittura il migliore di tutti. No, lui è un ragazzo molto, molto forte, molto determinato, scia molto bene, soprattutto nelle discipline veloci. Adesso ha dimostrato anche Chris Buell di essere tra i più bravi e direi che insomma di lui senz'altro ci possiamo aspettare delle belle cose. Ma anche in gigante abbiamo una bella squadra con Blardone, Simoncelli, Mölk, poi in slalom anche lì c'è di nuovo Mölk, Razzoli che insomma quest'anno si è messo veramente in luce, insomma si può ben sperare, abbiamo un bel gruppo e insomma se non tutto va storto qualche medaglia dovrebbe arrivare. Dal punto di vista tecnico che tipo di pendio è quello di Whistler Mountain? Si dice non troppo adatto alle caratteristiche ad esempio dei nostri gigantisti, più un pendio adatto a atleti polivalenti. Ma bello, bisogna adesso vedere come sono le condizioni del tempo, come la pista. Io direi che sì, noi andiamo sempre bene, più ripido è meglio andiamo, però per il resto direi che bisogna, le Olimpiadi sono lì e bisogna cercare di fare il meglio anche su quella pista lì. Per A Bordo Campo speciale Vancouver 2010 è tutto. Un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e riascoltare questo, come tutti gli altri programmi di Radio 24, sul nostro sito internet www.radio24.it. L'appuntamento con il nostro viaggio verso Vancouver è ancora per sabato prossimo alle 13.15. Domenica invece alle 14.30 l'abituale appuntamento con le piccole grandi storie dello sport con A Bordo Campo. Un saluto da Dario Ricci.